Buongiorno, questo è il cammino di Gigi D'Agostino. E io adesso suono un po' di musica. Ciao, sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Si sente? Lasciati andare, se per te la per te la prima volta, lasciati andare, capito come? A piccia sta radio ti arriva un destro, alle ore 18 suona il maestro. Capito come? Ovvio. È il cammino del Gigi D'Agostino. Dai, dai. E questo è il mio cammino. Si sente? La musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la. Música.

cammino del Gigi D'Agostino. Te caccia via lo spirito maligno. D'Agostino, una fragranza per l'ambiente. L'uomo stolto cerca la felicità lontano. L'uomo saggio la fa crescere sotto i propri piedi. Robert Oppenheimer.

po' di perplessità. Mando la pubblicità. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica che unisce.